mode génétique Huria, un algérien, la résistance est en moi. E allora bene, di nuovo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questo è del tempo che ci siamo presi per parlare di alcune iniziative di lotta contro il carcere che si terranno a Bologna e a Roma nella giornata di domani. Con un compagno poco fa, insomma, vi abbiamo parlato di questo acronimo PRAP, che cosa significa, degli uffici, di chi siede lì dentro, cosa decide. E parliamo di chi siede lì dentro e decide sulla vita delle persone detenute, alla luce di un anno difficile ma di lotta che abbiamo spesso raccontato su queste frequenze. Siamo al telefono con una compagna di Roma. Proprio domani a Roma si terrà un presidio davanti agli uffici del DAP. Insomma, proviamo a fare la stessa cosa con te, ecco. Ciao a tutte e a tutti. Ciao. Allora, insomma, raccontaci un po' che cos'è il DAP e perché si è scelto di andare lì davanti domani mattina e via dicendo, insomma, di quest'anno appena trascorso. Allora, il DAP è un acronimo che sta per Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è uno dei quattro dipartimenti in cui si articola il Ministero della Giustizia. Per chi sta seguendo in particolare da un anno a questa parte quanto sta avvenendo nelle carceri, il DAP è un referente immediato della rabbia di solidali e familiari, perché è responsabile della gestione della quotidianità all'interno del carcere, dell'esecuzione della pena, del trattamento, quindi ha un riscontro, le decisioni che prende hanno un riscontro immediato nella vita delle persone detenute. E in più si occupa dell'ordine, di gestire l'ordine e la sicurezza all'interno delle carceri, per cui è il referente della polizia penitenziaria. Per cui domani alle 10.30, come già si fece un anno fa, ci ritroveremo tra solidali e familiari davanti agli uffici del DAP che si trovano in zona Bravetta, proprio per riportare ai diretti responsabili di quanto è avvenuto nell'ultimo anno, ma anche in precedenza, perché come è stato più volte anche detto dai microfoni di questa radio, l'emergenza sanitaria dichiarata un anno fa non ha fatto che accentuare e inasprire situazioni già al collasso all'interno del carcere, strutturalmente al collasso, per cui è un passaggio per noi obbligato andare davanti a quegli uffici. Lo faremo ricordando quanto è avvenuto in quest'ultimo drammatico anno, e lo faremo anche con parecchio rumore, perché l'intenzione è quella di portare strumenti per portare davanti a quegli uffici le battiture che evidentemente non gli sono mai arrivate, perché è gente che pur amministrando il carcere lo fa da una comoda poltrona, lo fa da dietro una scrivania, nascondendosi nell'ombra delle retrovie della burocrazia, e alle loro orecchie evidentemente non sono mai arrivate, non è mai arrivata la paura e la rabbia delle persone detenute, che in quest'anno si sono fatte sentire tante volte, e tante volte hanno fatto risuonare i blindi delle celle in cui sono state rinchiuse come topi in trappola, dal nord al sud Italia, per cui appunto ci sembra doveroso andare a disturbare il silenzio in cui nascondono le proprie responsabilità. Bene, intanto ti ringraziamo. Noi ne abbiamo parlato durante quest'anno anche un po' accorgendoci chiaramente di come il cambio di guardia all'interno del DAP, ovvero il cambio dei vertici del DAP, avesse oscurato tutto quello che stava avvenendo nelle galere, tanto così per accennare e provare a riportare alla memoria. Ma a inizio marzo scoppiano le proteste nelle carceri, i giornali ovviamente sono costretti a parlare delle proteste così come delle condizioni di detenzione. A un certo punto, dopo le morti, dopo diversi pestaggi, trasferimenti e comunque nessuna soluzione intravista all'orizzonte per fare, diciamo, fare in modo tale che le persone non si contagiassero in carcere, nonostante aleggiava un po' la promessa di domiciliari che ha messo un po' tutti in attesa, sospesi per questa possibilità. Di fatto cade il buio totale sulle carceri e subito dopo si apre un dibattito scandaloso sulle scarcerazioni domiciliari concessi a tre detenuti, tra l'altro anziani, in pessime condizioni di salute, che si ritrovavano in 41 bis. Questo dibattito si scatena in televisione e di fatto da lì si parla praticamente solo di questo. Sì. Praticamente si mette sotto silenzio le morti, il dilagare dei contagi e tra l'altro anche la voce di migliaia di detenuti e di persone che avevano i propri cari all'interno, che chiedevano una soluzione seria per evitare morti e contagi. Sì. Sì. Come dicevi tu, c'è stato un cambio di guardia ai vertici del DAP e questo assurdamente è avvenuto non perché si è attribuito all'allora capo del DAP Vasentini la responsabilità dei 14 morti che sono stati uccisi durante le rivolte quasi un anno fa, non perché non per la repressione violenta delle proteste dei detenuti con cui chiedevano misure serie, chiedevano informazioni su i protocolli, sulle disposizioni che il governo avrebbe dovuto prendere per tutelare la salute, a maggior ragione di chi è rinchiuso. La testa di Vasentini, come dicevo, non è saltata per i 14 morti, non è saltata per le stragi, non è saltata per le mancate risposte, ma assurdamente è saltata per la piccola risposta che era stata data, forse l'unica minuscola e scontata e dovuta apertura che c'era stata il 21 di marzo con una circolare che riprendeva semplicemente delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in cui veniva stilata una lista delle patologie più serie suggerendo ai direttori di carceri di segnalare i detenuti affetti da queste patologie ai magistrati di sorveglianza per accelerare l'accesso alle misure alternative per un differimento di pena, che peraltro era una legge già prevista quindi per sospendere l'esecuzione della pena in carcere, permettere a queste persone di trovarsi nelle loro case a scontare la pena in, in una situazione di maggiore igiene, di maggiore garanzia a tutela della loro salute. Questo è stato il caso che ha fatto saltare la testa di Basentini, perché c'è stata, come accennavi prima tu, una manipolazione mediatica incredibile su questa circolare. Piuttosto che i media di regime, piuttosto che concentrarsi sul fatto che questa è stata l'unica l'unica circolare uscita che tentava di dare una risposta alle richieste dei detenuti sul che cosa state facendo per noi, ci troviamo in luoghi insalubri, ci troviamo in luoghi sovraffollati, come avete intenzione di gestire la situazione? Ebbene, questa circolare è stata cavalcata dai giornali, dalla procura antimafia si è accusato il DAP di scarcerare i mafiosi, di strizzare un occhio alla mafia, per cui si è messo questo coperchio. Come al solito si distoglie l'attenzione sulla questione principale che riguarda tutti, che è la tutela della salute, e con lo spauracchio della mafia, che peraltro viene sempre di cui si parla sempre con un ipocrita giustizialismo, ebbene come un coperchio la questione della scarcerazione dei mafiosi, che peraltro riguardava tre cosiddetti boss mafiosi che avevano quasi 80 anni e gravemente malati e che già erano in carcere da decina d'anni, per cui si distoglie l'attenzione dalla salute dei detenuti e la si sposta su quest'altra questione. Questo serve per iniziare il gioco della sedia, cambiano i vertici del DAP, Basentini viene sostituito.